prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. In questa puntata, doveroso aggiornamento sulle zone terremotate del centro Italia, colpite anche dall'emergenza neve, oltre che dalle continue scosse. Oggi sono 5 mesi dal primo sisma, quello del 24 di agosto, e le vittime purtroppo sono aumentate. La Caritas nazionale, con supporto di tutte le Caritas diocesane, ha moltiplicato fin da subito l'impegno accanto alle popolazioni duramente provate anche dalla neve, che ha reso e sta rendendo molto difficoltosi gli spostamenti, non consente di raggiungere alcune frazioni. Il terremoto e la neve in questo gennaio 2017 sono diventati un mix micidiale che ha provocato altre vittime. La nuova emergenza è arrivata mentre sono già attivi i gemellaggi di tutte le Caritas, da nord a sud, con la diocesi di Rieti, le 6 diocesi delle Marche colpite dal sisma, Ascoli Piceno, Camerino San Severino, Fabriano Matelica, Fermo, Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia, San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone, Montalto, la diocesi di Spoleto, Norcia, gemellata in particolare con le diocesi del Nord-Est, e poi le diocesi dell'Aquila e di Teramo, Atri. Un territorio molto esteso in cui le emergenze si sono moltiplicate. Molte le difficoltà, come abbiamo visto e raccontato anche da queste frequenze, abbiamo raccontato anche l'esperienza di vicinanza nelle scorse settimane vissuta da alcuni giovani della parrocchia di Mestrino. Di un'altra iniziativa parleremo domani, in particolare arriva dalla parrocchia di Romano Lezzellino, che sta per celebrare la sua sagra della Candelora, partirà giovedì 26, ma all'interno del programma ha diverse iniziative di vicinanza e di sostegno proprio alle zone terremotate. Le chiese locali, le diocesi stanno completando il monitoraggio dei bisogni di tipo sociale ed economico, avviando gli interventi mirati alla ripresa delle attività produttive, soprattutto le aree di campagna. Pensate alle attrezzature per allevatori, agricoltori, ai tunnel agricoli per il bestiame, i mangimi, i forali, interventi strutturali per la ripresa, il mantenimento della produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti tipici. Dal punto di vista strutturale, si è dato prontamente avvio ad un programma di realizzazione delle strutture polifunzionali, centri di comunità, il primo inaugurato ad Amatrice esattamente 2 mesi fa, il 24 di novembre, subito utilizzato dopo le 9 scosse come punto di primo soccorso. Altre piccole strutture sociali e pastorali sono aperte a Sant'Angelo, a Scai, frazione di Amatrice, a Grisciano, frazione di Accumoli, e poi in base ai bisogni pastorali evidenziati dai vescovi con ulteriori interventi. Nella diocesi di Spoleto Norcia si stanno attuando le prassi amministrative per avviare quanto prima la realizzazione di strutture nella stessa Norcia, a Cascia e ad Avendita, che è una frazione di Cascia. Questa diocesi in particolare, ricordiamo, Spoleto Norcia, è gemellata con le diocesi del Triveneto. Poi altri interventi sono in corso nelle altre comunità, ma appunto quel territorio fatto soprattutto di montagne e di colline ha moltissimi centri abitati piccoli o piccolissimi sparsi appunto nelle valli e sulle pendici delle montagne. Una risorsa importante, ma in questo particolare frangente questa collocazione sta diventando molto difficoltosa proprio per le abbondantissime nevicate. Ricorderete che ci fu una colletta nazionale il 18 settembre scorso, a qualche settimana dal terremoto, colletta che è stata effettuata in tutte le comunità parrocchiali italiane. Una risposta solidale e generosa. Alla Caritas italiana sono arrivati circa 21.600.000 euro, incluso in questa cifra il 1 milione di euro messo subito a disposizione della Conferenza Episcopale Italiana. Oltre a proseguire con aiuti concreti, la priorità ora è di restare in ascolto delle comunità locali, portare all'attenzione delle istituzioni soluzione questo ascolto di tanti che soffrono, sono isolati e disillusi dalle troppe promesse fatte in questi mesi e non mantenute. Un carico di interrogativi che esige delle doverose risposte, da quelle più immediate alle scelte di ricostruzione da cui dipende il futuro di queste persone. Rimane aperta la raccolta fondi presso Caritas Diocesana di Padova con diverse modalità direttamente allo sportello dell'ufficio pastorale in via Vescovado, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13, al pomeriggio invece su appuntamento. Si possono effettuare versamenti su conto corrente postale, bonifico bancario, donazioni online tramite il sito donazioni.caritaspadova.it oppure per offerte detraibili ad Onlus tramite un bonifico bancario intestato all'associazione Adam Onlus presso Poste Italiane. Tutti i riferimenti, numeri, conti correnti eccetera si trovano sul sito caritaspadova.it. La causale è terremoto Centro Italia. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.